Bellissima sei tu di Copenaghen. Guglielmina, fa impazzire tutti quanti i giovanotti di Copenaghen. La tua bocca è un dolce fior, la tua chioma è fatta d'or, hai negli occhi lo splendor delle stelle che di notte stanno in cielo. Guglielmina, certo un dì ti rapirò da Copenaghen. Guglielmina, la Giulietta di Romeo diventeremo di Copenaghen. Per la gran felicità il cuor mi sento già tremare, notte e giorno sogni dolci baci che la tua bocca mi darà. Certo un dì ti rapirò da Copenaghen. Guglielmina, la Giulietta di Romeo diventeremo di Copenaghen. Per la gran felicità il cuor mi sento già tremare, notte e giorno sogni dolci baci che la tua bocca mi darà. Guglielmina, Guglielmina, la tua bocca notte e giorno sognerò.